768. Gelato di torrone. Latte 1 litro, zucchero grammi 250, zucca rossa candita grammi 40, cedro candito grammi 30, mandorle grammi 30, pistacchi grammi 20, rossi d'uovo numero 4, odore di vaniglia. Fate una crema con latte, lo zucchero e i rossi d'uovo, dandole l'odore della vaniglia, e versatela nella sorbettiera. Quando sarà gelata, mescolateci dentro gli ingredienti suddetti. I pistacchi e le mandorle, sbucciateli nell'acqua calda. Quelli divideteli in tre parti e queste tritatele alla grossezza di una veccia e tostatele. Il candito tagliatelo a laminette e la zucca a dadi grossetti, che essendo rossi faranno più bella mostra. Se il latte è buono, facendolo bollire per mezz'ora con lo zucchero dentro, si può far senza dei rossi d'uovo, ma il composto verrà allora di meno sapore. Le mandorle in questo e in simili casi vengono meglio tostate nella seguente maniera: spellate e tritate che siano, mettetele al fuoco con una cucchiaiata del detto zucchero e un gocciolo d'acqua. Rimestatele continuamente e quando avranno preso colore, fermatele con un altro gocciolo d'acqua. Versatele quindi in un colino sopra lo zucchero rimasto e servitevene.